Prego. Ecco. Gianni. Oh. Avanti la portante. Avanti la portante, buonasera. Avanti la portante, buonasera. Paolo ci stanno. Avanti la portante. Hola. Ecco. Hola, hola. Recu. Che avanti. Ciao Gianni, doppio, barracuda. E barracuda. Mandigarlo, acqua. Mandigarlo, acqua, mandigarlo e torrente in dopo. Ma sto facendo di radio, Antonio. Come già? Massissimo di radio. Perché sono qua in Viale Italia. Ma c'è a Sassa? Sono dovuto andare lì in farmacia, che c'è lì alla, come si dice, in Piazza Castella, prendo la medicina alla mia moglie che non sta bene. No, questo mi dispiace. Ma dovrebbe essere appresa, Simon sta dicendo. Sì, sì, l'ho già presa, è l'unica farmacia che trovo sempre aperta. Sono qua di fronte all'ospedale, sto rientrando a casa. Mangiato? Io sì. Io ho mangiato. Cosa veloce. Cosa buona? Cerchia con piselli, fettuccine con sugo e poi ho mandato. E già va bene, mi ha dato, mi ha regalato un po' di patate, aserecce e le ho fatte fritte, già erano buone, buone e saporite, specialmente quando sono coltivate, dai, qua in zona, dunque sono sempre le migliori, già erano buone, la verità. E beh, già sono buone quelle lì, sono più saporite, so. Mangiato, ma da soli, sì, perché è pensato. Tony, non sto uscendo del radio. Oh, guarda adesso. Ehi, ma secondo me dipende dalla batteria, non dalla zona, Perché scompare la modulazione come se fosse nell'offertomba. Dalla batteria? E dalla batteria del microfono. Ah, no, non è amplificato, ma ce l'ho, sto usando dalla 44. Strano. Ma oh, questo microfono intanto difetta, c'è sempre il suo originale di 18 anni fa, intanto lo accolpi. E allora è il filo sicuramente. E via. E non c'è nessuno, no? Oh. Sì, boh, sta uscendo. Sta uscendo, non è entrato nessuno ancora? No, negativo. Sì, che vabbè, già è preso, sono le 9:10. C'è presto ancora, sicuramente stanno mangiando. Ma sta mangiando poco la sera, non sta mangiando quasi nessuno. Oh, vabbè, speriamo almeno il periodo natalizio di sentirci tutti insieme. Stavo dicendo, ma hai mangiato le seppie, quelle che hai pescato tu? No, negativo, questa volta quelle comprate, perché io non ci sto andando. Ah, ecco, già va bene, dai. Non saranno buone come le pesche, comunque già va bene lo stesso. E a voglia, che non sono buone come quelle che prendo io. Quelle che prendo io sono belle dolci dolci. E quello già è vero, appena pescate, direttamente sulla padella, è tutta un'altra storia, già va bene. Stai dicendo domenica, adesso quanto sta correndo quel tipo, per carità, domenica sali su anche tu al quadrato. Non ho capito, Antonio. Domenica sali su al quadrato. Non lo so, vediamo. Come ti gira il caso, se ho quell'oretta libera già ci salgo molto volentieri. Adesso troppo non mi sente perché sta entrando nella prima galleria. Fa gamba. Vabbè, dai, già ti ascolto ancora bene. Beh, Antonio, esci così. E allora? Sento l'occhio e l'ombra sono i coppi. Immagines, maso, sorprendente del mondo. E anche lo spalo mangia le su una persona. Addirittura. Sì. C'è uno che sta scorreggiando nell'acqua che fa tipo balena, gli esce l'acqua da sole. Più sorprendenti del mondo, ma non si è sentito nessuno a proposito dei sorprendenti e del mondo? Ho sentito solo Antonio Diussi e poi non è più entrato. Fabrizio non si è sentito? Ma non è capito. Allucinante, ci sono delle immagini sorprendenti veramente. C'è un morto 8 anni e 4 mesi, no, 3 anni e 8 mesi, ed è integro, con carne e tutto quanto come quando era sottolto. Perché subentra in alcuni cadaveri a seconda delle condizioni in cui si vengono a trovare durante la morte, delle quasi una mummificazione naturale, capito? Ma è capitato più di una volta di aver trovato in un appartamento vecchi morti da 10 anni che si erano conservati perfettamente, non avevano fatto né puzza né niente. Ma non è mummificato, è come se fosse una persona addormentata, ecco. Che mi so bene, non è mummificato, si vede la carne tutto quanto, poi c'è un bambino che ha due denti, due palati, guarda, fili di denti, allucinato, ma se lo trovi, aspetta che io devo andare, non so. E io sono andato perché volevo vedere quello che mi hai detto tu l'altro giorno. Ho trovato i piedi, mamma mia che schifo, non c'era morto. Sai che te l'avevo detto io? Ho detto praticamente di controllare di quelli che cucinavano con le bare, con i coperti delle bare a Napoli. Allora c'è quando qua, è nato questa roba, io ho messo bare, coperti delle bare, c'è tutto che ho questa cosa qua. Non cosa non sta facendo, ricordo che fanno impressione veramente. Se lo vuoi trovare subito, basta che vai su www.iene.it e nel motore di ricerca dei servizi metti bare oppure pane Napoli. Adesso siccome sono coperti da copyright non li trovi su YouTube i video delle Iene. Ce n'erano tanti, però non ho trovato quello. Sono la www. Però se le Iene oppure metti Iene solamente .it che è quello ufficiale, perché di solito aprono dei siti che hanno la stessa dicitura e dopodiché è tutt'altro. Allora, archivio puntate le Iene, questo qui non c'è? Non si vedono loro, sì. Non ti sento, ammetta, non mi senti? No, non ti sento, non mi cuffia a momenti. Tu come mi senti, grazie? Bene, bene, sta a posto. Ciao Giulio. Ciao a tu. No, sei troppo basso rispetto a... ti sto ascoltando in cuffia, no? Ma te non riesci a sentire, Claudio è fortissimo. E dunque non è che posso stare col volume abbassando e aumentando. Se tu puoi aumentare il volume... Guarda adesso, come mi senti? Sei un'alternata, Giulio. Sì, lo so, c'è la televisione accesa qua. Va bene, così già. E allora il microfono che l'ha preparato. Va bene così, dai, vi ascolto. Allora, le Iene, puntate. Le Iene.it. Ma qua c'è scritto pubblico, segnalazioni, new, pubblico, foto, tv. Il sito ufficiale delle Iene, guarda un attimino. Sì, le Iene è scritto come lo scrivono loro. Iene, mediaset.it. Adesso guarda, ci dovrebbero essere le puntate, c'è un motore di ricerca all'interno per le puntate, cerca attraverso parola, boh, non so che cosa, e comunque dovrebbe essere in basso al centro. E come metto Napoli o pane? Napoli pane, Napoli e pane, metti Napoli, dopodiché spazio pane. Ok, messo. La metti invio e vedi se ti apre la cosa. Foto differenziata, fuochi legali a Napoli, colazione, foto scampi, Maganello, Danaiello, ospedale, psichiatrico giudiziario, Tirrenia, parcheggiatore bugiardo a Napoli, mercato dei vestiti falsi, cazzo, boh. Aspetta, che mette nella scorsa. Mettere lo stesso lo aggiungere bare, ma magari se lo, non te lo mette, mi prova. Perché bare a Napoli? Vedi nel coperchio, metti pane, bare e Napoli. Siamo un po'. Ma è Canarra, perché? Pane e Canarra, tu dici scritto. Ma può essere sì, è quella, è quella. Dove? Prendo. È uno delle Iene che cerca di vendere il pane per le strade, siccome lì il pane la domenica, no, il sabato non panificano, quindi la domenica solo chi lo fa a casa, quanto ho capito, lo può vendere così, in maniera ambulante. Poi c'è una specie di racket, non un racket, però un business della mafia, della camorra, perché la mafia è siciliana, dove per cuocerlo chiaramente utilizzano sia per l'impasto farina guasta che per cuocerlo mare, pezzi di mare, gomme di macchine, una cosa abominevole. In breve non mi stavi credendo. Ma mi sembrava che stessi che mi stessi prendendo in giro, la verità. Io farei di tutta l'erba un fascio, ma i napoletani sono assurdi, eh. Nella loro fantasia, però se è una fantasia malata a volte, dimmi tu, cioè non gliene frega niente della, della salute del prossimo. Sapra che si avvengono loro, o i buti, ti danno i mattoni, ti danno solo quello, so quello che gli pare, o allucinato, ma dopo avuto allucinato, oppure anche rivolto, per cose, se so cosa ci mettono in bocca, porca vacca, via. Non è tanto per il tappo che è stato utilizzato per la bara che è relativo, ma tu immaginati come è stato trattato, impregnato, laccato quel legno, capito? Sì, ma se poi riescono, cioè arrivano a cuocerlo con il legno, la gomma delle ruote delle macchine, tu immaginati che schifo, a parte l'inquinamento atmosferico, ma tu immaginati il pane, che poi dico ci vuole coraggio a mettersene in bocca, perché al primo morso chiunque sentirebbe che c'è qualcosa che non va, no? Sì, per carità. Ma è buono, che cose se non sento? Io non ci avrei mai creduto una cosa del genere. Il problema è che poi si lamentano quando li etichetti e sono i primi che si vantano di essere, capito, quelli che fottano il prossimo. Non è vero, però. Mi ricordo che siamo andati a una cena con due avvocati di Napoli, amici, là, con due avvocati, e stanno parlando di truffe che fanno a Napoli, dicono che tutto il mondo è il paese, che anche allora dice noi dobbiamo aiutare i soldi perché fanno si accostano le persone. Non tutto non si può fare, non fa, ci sono persone brave e quelle cattive, quelle che fanno queste cose, come da tutte le fare. Grazie, non mi sarebbe una cosa. Un attimino, mi sto cercando una cosa. Stavo rispondendo a un SMS di un amico. C'è quello del telefono. Per me è arrivata una bolletta da paura. Perché ce l'hai la bolletta? Va di Roger. No, c'è una specie di tariffa agevolata, ma mi è arrivata un bimestrale da mi ha piegato le gambe. Anch'io c'ho la tariffa agevolata, pago 20 euro al mese. Faccio le telefonate che voglio. Con a terra, con Xiaomi, con tutte le come si chiamano, le compagnie di fuori, che va. Però già no, anch'io, il problema è che sforo niente delle tariffe da paura. Infatti adesso cambio, passo da Wind a 3. Io c'ho tutti i giorni per. Qui abbiamo acquistato due telefoni, acquistato questi telefoni, tipicamente se faccio questo tipo di contratto ti davo questi telefoni gratis. Uno era un LG e l'altro, eccolo cosa cacchio era, ma un Samsung, si vede molto meglio. Stavi cercando di far entrare un'altra persona in frequenza, un attimo. Pagare. Ecco tuo. Aspetta, vedo un attimino se cosa facevo. Sera, se lo aiuta a tirare su un'antenna, voglio vedere un attimino, di dargli un controllo perché non sono riuscito a capire se stessi uscendo bene o cosa. Se ha problemi di ricezione con la zona. Aspetta, non me. Voglio fatto comprare una Ringo. Sì, qualità prezzo è la migliore, per 38, no, 35 euro, è l'antenna migliore che ci sia. Ma che è leggera come antenna, non è molto resistente. Come resa ne ha? Se la danno come cortocircuitata, arriva a 3000 watt, 3000 watt non è poco. Però insomma, di guadagno quanto c'è? Controlla quello. Io so, non è un granché, però è sempre meglio di una boomerang. Se vai a comprare una boomerang o una mini Grand Plain, c'ha meno guadagno e meno resa. La boomerang è un'altra che ho sempre odiato, perché non riesci mai a regolare bene le stazionarie. È un casino, questa antenna, fa carità, non l'ho mai potuto vedere. È un'antenna, adesso non voglio offendere, pertanto chiaramente, però un po' da poveri. È l'antenna che avevo comprato io all'inizio, è lo stesso, da poveri nel senso di chi ancora non si è organizzato la stazione, dai. Perché fra l'altro c'è una semidirettiva per cui alla fine non ricevi, a meno che non sia indirizzata nel punto esatto in cui vuoi sparare il segnale, capito? Irradiare il segnale. Diciamo che poveri principianti. Ho utilizzato volutamente un malapropismo. Poveri di idee, intendevo. Diciamo che sono sempre da principiante, perché anche io sono principiante, se prendo un'antenna buona dall'inizio, fa una spesa e la fa per sempre. Non devi stare a spendere, prima ti compri un po' la mini Grand Prix, poi provi quella, poi provi l'altra, poi provi l'altra, ci spendi di più che a comprarti una mantova direttamente e almeno c'è un'antenna come si deve. Cose che alcune antenne spaventano, la mantova per come imponente, che quando l'ho costruita, io che sono abituato comunque a avere, ho avuto anche la Sirio 2008, cioè la Sirio 2008, perché io non le butto le antenne, tantomeno le smaltisco, e quando la monti un po' di soggezione ti mette, perché è comunque 8 metri, se non sbaglio. I radiali sono da 1,5 metri ciascuno, quindi ha un diametro di 3 metri, non è un'antenna che per poter iniziare, perché inizialmente uno la mette sul balcone, la mette da tutt'altra parte, tranne che sul tetto, perché magari non può farlo. Quindi è dopo che ti organizzi. E io questo excursus l'ho vissuto tutto, perché io ho iniziato dall'antennino per la macchina, modulando dentro casa. Poi avevo comprato una boomerang, poi dalla boomerang sono passato alla mini Grand Plain e poi fino ad arrivare alle antenne che ho adesso. Però guarda, quella che mi è durata di più è la mini Grand Plain, che tuttora ho. No, io ho avuto la bazooka, ho avuto antenne di macchina, io ho fatto corso su tutta la scala, non è che Caliceto che sia migliore degli altri, ma sarebbe meglio fare così, perché dico, una volta appurato che succede così, proprio prima con l'alimentatore piccolo, poi dopo più grande, poi più grande ancora, e poi non ti accorgi di più dell'apparato che c'è, troppo più grande. Insomma, è la passione che ti fa fare certe cose, però se si cominciasse bene, se uno ti sa preservare una dritta, sarebbe una cosa più accettabile comprare una volta solo invece che 100 volte. Ma lo sai che cos'è il problema? Che finirà. Chi è che mi sta sovramodulando? Marugrimo. È Marco. Buonasera. E Luca. Ti stavo dicendo, ma sai, la maggior parte delle persone pensano che per costruirsi una stazione che vada lontano ci serve a comprare la scarpetta, magari hanno tutta quanta la linea frasica del coso del cavo, i PL saldati male e magari l'antenna che lo stesso non è messa in una posizione. Io dico che se hai un'antenna messa in una buona posizione, se c'hai un discreto apparato, perché poi 4 watt con cui esce un buon apparato, i 4 watt con cui esce un apparato mediocre, è relativo ai fini della modulazione, ma non della gittata dell'irradiazione. Tu guarda Falchetto, che usciva con 4 watt, esce con 4 watt, ha una buona antenna, messa in una buona posizione ed è devastante, arriva da tutte le parti e non ha bisogno né di scarpette, né di pompare, né di fare. Senti persone che stanno sempre pompando e non vogliono sentirti, non vanno da qua lì. Sicuro sei che non hai scarpe. Negativo, negativo, ma non avrebbe motivo di non dirlo, qui è relativo, comunque esce molto bene, e non è te lo spiego, perché ho visto l'alimentatore che ha, quindi con l'alimentatore che ha non può utilizzare scarpette. È una buona zona, quello sì. Vabbè, io mi sto mangiando una seara, se la facciamo. Bene, fai bene Luca. Luca e Riello. Stavo una vita non le mangiamo, sono buone. Guardate che siano ben scongelate perché il formaggio deve essere ben fuso e non deve essere granulare. No, allora, non figo tu, tranquillo. Abbiamo si è sciolto il formaggio. No, Luca, sono tanto di meno meglio. Come lo fate con lo zucchero o col miele? No, con lo zucchero, miele non macchina già, con lo zucchero. Come con miele non mi piace? Ma sono buona. Ti vuole, va? Sì, mi sono comprato la rete elettrosaldata per fare la graticola fine per coso, per lo zimino, che voglio ripetere l'esperimento. E mi stavo anche bisticciando col padrone con Marcizzi. Perché? Perché a un certo punto ho comprato, tu immaginati, una verga da 6 metri di palo zincato, delle piattine per fare una cosa, come si dice, un sostegno. Dopodiché ho comprato anche questa rete qua, quindi la spesa l'ho fatta. A un certo punto non mi stava dicendo, è passato due volte e si è attaccato col dipendente dicendo, oh, io non lo so, ma perché stai perdendo tempo, ma cosa stai facendo? E veramente sto servendo il signore. Sì, ma per tagliare un pezzo di verga non c'è bisogno di un pezzo di tubo, una verga di tubo non c'è bisogno di stare lì due ore. Ma dice veramente, gli ho detto, guardi, forse è colpa mia, gli ho chiesto delle delucidazioni in merito, non so che cosa, come poter utilizzare la cosa, perché io volevo comprare, sbagliato, la rete zincata. Mi ha detto, guardi che se lei compra la rete zincata avvelena la carne, giustamente. Però non ci ho pensato, stavo pensando che si arrugginisse, quindi vabbè. Anche questo qua si stava dicendo, no, perché qua venite, chiedete consigli, dice qua dovete venire, comprare e andare via. Gli ho detto, guarda, cioè, è che c'era la roba già pagata in macchina tagliata, se no gliela avrei scaricata in terra. Che abbassoni. No, ma infatti è un idiota, ma un idiota davvero. E chi è questo qua, il giovane? No, il proprietario. Infatti il tipo si è girato e gli ha detto, ma cosa stai dicendo? Dice, i signori hanno già pagato e li sto servendo, hanno comprato anche parecchi. Ma una strapotenza, guarda. Dice, no, perché qua si improvvisano tutti i fabbri. Ah, te ne vai a fanculo, ma... Non gli stanno i soldi, che cosa vuole? Prescindere, poi ti ripeto, la cosa si è chiusa dove lui mi chiedeva quasi scusa, però... Cioè, ma che cazzo di atteggiamento è? Se vuoi vendere solo ai professionisti, a quelli della professione, basta che vendi solo alle persone che hanno la partita IVA e non vendi al minuto, capito? Cioè al minuto nel senso ai piccoli pezzi per persone che non sono del mestiere, ma dico, i soldi te li fai più con quelli che con altri. Ho capito, paghi sul vero, quello brutto con gli occhiali lui. Negativo, è quello che c'è sempre con un atteggiamento da baraccocco, nel senso da picchiatore, capito? Che mi fanno un po' castare qui, se ci appare l'usuio guarda. No, vabbè, ma l'usuio che cosa? Ma non è che abbia insultato, però perdi clientela perché ti mandano a fanculo e vanno da un'altra parte. Ti dico, se non l'avessi già pagata, l'avevo già pagata e sono tornato indietro per farmi tagliare con la rete. Ti avrei detto, ascolti, adesso l'ha tagliata, cosa la tenga? Capito? Ma poi dico, paghi ferraggio perché sono degli strozzini anche, a dei prezzi assurdi. Vero è che i tubi sono i migliori, cioè se devi comprare un tubo è sempre meglio andare lì, perché una verga da 6 metri te la rincata da 40, te la vendono a 24 euro, esatto, 6 metri. Se tu vai da Bricomel la metà esatta ti costa quasi il doppio. Sì, ma sono con piccoli difetti, roba del genere, allora le va scaricano perché la prendono in quantità, perché sono cose che escono con difetti, con smussature, vabbè, a te non te ne frega nulla che abbia le smussature, roba del genere. Con le fabbriche che li vendono questi tubi qua per farli fuori perché sono difettosi e loro non li possono vendere. Indubbiamente, ma poi entri lì dentro e ne vedi di tutti i colori, perché ricicla di tutto, ricicla soprattutto gli zingari, vedi che vanno a vendere lì il ramo, cioè, sicuramente ha ricavato anche da furti di cavi elettrici che poi vanno a bruciare in una campagna vicino a via Mendola. E tu vedi tutta la fuliggine del coso, della plastica, della copertura del capo, perché cosa fanno? Ne rubano in grande quantità, la ammassano, dopodiché iniziano a bruciare tutto per togliergli la plastica e far rimanere solo il rame, capito? Sì, l'altra volta la domanda stai a rubare una bobina di capo di quello grosso, di quello a sua pensione. Il rame costa un bene, cioè se lo valutano parecchi soldi. Non so, se è una cosa più ben pagata, ferro, alluminio e tutto quello che versi, no? Infatti non hai visto che adesso i tubi li stanno facendo in multistrato proprio per questo motivo, perché il rame costava troppo. E non è costo? È costo questo rame, infatti lo rubano un bel. La vita, nel senso che io il bagno quando l'ho fatto rifare in rame, tu mi rimandata, perché questo multistrato realmente c'è da troppo poco tempo, non sai come si comporta, soprattutto, vabbè, non tanto per gli scarichi, perché poi gli scarichi non li fai in rame, però non sai come regge la pressione, al logorio, a tutta la corrosione soprattutto. Sì, comunque se rubano un bel anche bobine intere, figurati, erano beccati cercando di caricare questa bobina su una motocano esterna alla zona industriale. Non è che si attaccano le linee dismesse, se magari a volte sbaglia li trovi attaccati bene bene. No, una bobina con il cavo a volta ancora, senza usare. Capito quali sono? Quelli in legno grandi che saranno almeno 2 metri di diametro. Esatto, sì, quelli. Se già non pesano. A me li devo portare, già lo so che pesano un bel. L'hanno messo sopra il pallet, solo il pallet, con la pagana discendente. Per poterle srotolare hanno uno svolgitore particolare per poterle tenere, svolgere comodamente, se no le devi far viaggiare, capito? No, non ce n'è di quella famiglia, io quando le scarico a voi non so papperare. Guardi su internet, se non mi ricordo come cercarlo, su YouTube, dove ci sono questi qua in un grande magazzino che stanno allestendo, che fanno salire per le scale questa bombina. C'è dovuto gli molla perché le scale sono troppo rigide e sfonda completamente un muro. Se almeno, non dico una tonnellata, però un paio di centinaia di chili arrivano. Beh, sono anche casi grossi di alta tensione, quindi un bel grossi della zona industriale. Ma infatti quando vanno a tenderli, soprattutto nei tralicci, usano degli argani particolari per tendere il cavo perché ha una trazione devastante. Per il peso pure. Quindi è una giornata di pesca. Ma non fa mai le seppie, se lo faccio così non ho. Andiamo da un'altra parte. Mi è arrivato quell'inuit che ti dicevo. Bellino, c'è anche una chicca che è il coso, come si dice, c'è un 23 canali ed è uno dei primi transistorizzati ed ha l'orologio che ti fa la radiosveglia, te lo fa accendere la mattina, capito? Lo conosco, è meccanico l'orologio e ti sveglia col baracchino spesso, se c'è qualcuno modulando, dire c'è qualche camionista sul 5 e ti sveglia quello. Ma di rosso, che bello risveglio. Funziona bene. Funziona benissimo, purtroppo nel trasporto gli hanno un po' acciaccato un angolo. Non ce ne sono, non ce n'è uno buono, né SDA, né Bartolini, né TNT, sono tutti prezzi. Secondo me se li lanciano dall'aereo quando li trasportano. Vabbè, lo porti da giù dopo, lo metti a posto. Perché non è in legno, capito? Ha la carcassa in ferro, come si dice? Adesso non mi ricordo, non bocciardato, come si dice quando è. Sembra battuto a martello. Martella? Stellato, bravo. Ho capito. Magari anche se lo porti da Roberto qua te l'ha dritto. Io l'ho riaddrizzato, però è saltato un pezzo di vernice. Lo rifai, te lo fai tutto. Infatti adesso vedo un attimino, ma non si vede neanche, capito, già va bene così. No, mi sono reso conto che ho messo su questo piano, ti mando la foto, perché non mi piace molto fotografare la trazione. No, non perché nascondo qualcosa, ma perché è al pari di dire a una persona che può avere anche cattive intenzioni, guarda che ho questo apparato, questi baracchini, cioè se così, non dico che ti aprono la casa per quello, però sai. Se stai pensando a queste cose, tanto lo sanno che gli apparati ce li hanno. Apparati, perché intanto gli apparati che ho li utilizzo solamente in recezione, però per i baracchini e tutto, comunque sai, non dico che sia un patrimonio, perché non lo è, ma è sempre qualcosa che è a casa tua e che è meglio che persone malintenzionate non sappiano che c'è. Appaga. Ma anche tu non hai tutti i turchi, non si sa mai con chi si ha a che fare. Aspetta, non è così facile entrare. O meglio, a casa mia non è tanto difficile entrare, è difficile uscire. Cosa vuoi dire? Che tu c'hai un'arma che te la punti addosso se sei tu. No, negativo, assolutamente, io sono un violento, però diciamo che... Secondo chi trovi esce tranquillamente a futtitini. Secondo chi trovi, oi, devo farlo uscire subito, perché se rimane dentro poi magari si vendica malamente. Ci sono quelli ladri che vanno anche in giro armati, non è che... quindi bisogna stare molto attenti, non è a dire. Anche a casa senti c'è un arsenale, però... non è che tu puoi, secondo come non finisce una roba del genere, ma ti mettono dentro a te poi alla fine della ragione si passa al torto. Infatti io non intendevo assolutamente fare del male, ma comunque già c'è il modo per trattenerlo, non è quello il problema. E poi adesso hanno rivisto un paio di leggi, soprattutto sull'abuso di difesa, non è, o meglio eccesso di difesa, non è più così a favore del ladro. Diciamo che se ti trovi uno in casa non stai a guardare le leggi, se ti lascia più i frughi dei cassetti personali tuoi, dove c'è un documento, dove c'è roba tua personale, non lo so come reagisci, se pensi alla legge o se pensi a difendere il tuo patrimonio. Infatti, sembra meglio, come dicono le forze dell'ordine, un brutto processo che un buon funerale, quindi di conseguenza se ne freghi, mortua vita mea. Non so, hai visto quello del rifornitore andando a saccaggio, cosa fa? Negativo, ma notizia di quando? E già da un po' gli hanno fatto la mattina praticamente in due. Lui è uscito fuori, pum, e paladuno, e l'ha gribato. Sai, adesso non è che, ti ripeto, togliere la vita a una persona non è mai una cosa positiva, soprattutto per soldi. Però tu immaginati quanto può essere disperata una persona che fa un gesto del genere, ma soprattutto perché poi realmente, al pari dei tabaccai, loro del guadagno sia delle sigarette che della benzina ne hanno talmente una misera parte che poi stanno facendo dei sostituti d'imposta, cioè alla fine stanno vendendo una cosa che al 90% va allo Stato, capito? Che non ti anticipa poi neanche i soldi della cosa stessa. Questo è un po' quello del cruccio dei tabaccai. Arrivano gli imbecilli e ti rapinano tutto. Quindi alla fine, oltre che non hai il mancato guadagno, ti devi mettere nella condizione anche di restituire i soldi ai monopoli. Non è molto carino, te lo fanno una volta, due volte, tre volte alla fine. Infatti questo qui gliel'avevano fatto ripetutamente più volte. Poi infatti, figurati, la zona di Saccaggia, puoi scappare dove vuoi. C'è una base abbastanza deserta, nel senso che non c'è problema, capito? Per quanto poi rapine ne hanno fatto anche nei supermercati, ne hanno fatto anche nel supermercato qua sotto, che c'è fino a poco tempo fa c'era ancora il buco sul soffitto, vicino a casa mia in via Rockefeller, lo stesso al tabacchino tre volte. Rosso, mi fanno, qui non c'è l'IP, o sbaglio io? Un negozio in B. Dove? Via Rockefeller. Trappa Rogers, sì, affermativo. Era aperto, tra l'altro erano dei garage che avevano trasformato, cambiato la destinazione d'uso e ne volevano una barca di soldi, infatti duravano pochi minuti. Guarda, proprio che un giorno sono andato a cercarlo questo negozio, non l'ho più trovato, non avevo mai visto un negozio B qua a Sassari, quindi volevo vedere com'era. Ma questo era più che altro un punto d'appoggio, perché ci sono due tipi di negozi eBay, quelli che sono al pari di come era il mercatone, che venivano, cioè gli annunci venivano messi su eBay, però allo stesso tempo potevi fare il ritiro a mano nel negozio stesso. Se tu consideri però che tu che vuoi vendere un qualcosa, per non avere la rottura di scatole, devi fotografarlo, di farlo, di metterlo su eBay direttamente, poi dopodiché di spedirlo, dai quest'onere alla persona, a questi negozi eBay, tu in maniera ti devi pagare una percentuale a eBay stesso, una percentuale a quello del negozio, poi vai, ti rimane nuda. È più o meno come Portobello, quando vicino a Roma. Avevano delle percentuali molto alte e soprattutto succede questo: dopo un po' loro, dopo sei mesi, se non veniva venduta, ti abbassavano in automatico e di loro iniziativa il prezzo che tu volevi, fino a che non aveva nessun tipo di valore e la maggior parte poi delle persone gliela lasciava. Ad esempio, sicuramente io nel mio conto c'ho qualcosa e non sono andato più a vedere, ma boh. E anche io sicuramente ho dei CD, dei karaoke, un sacco di roba, tutto bruciato. E quelli se venduti su eBay ti facevi sicuramente più soldi. Dopo non ci sono andato da un bel po' di tempo, tu immaginati che era viva ancora la figlia. Padre Roger, già lo sai, no? Povera, ce la conoscevo molto bene perché aveva la casa lì nel villaggio dove c'ero io. Ma conosce bene anche mia moglie, abitava vicino a casa sua, quindi fate compagnia di scuola. Mi è dispiaciuto perché è una di quelle cose che non avevano saputo gestire. Il colpo di grazia l'ha avuto proprio dalla morte di un cane che gli avevano schiacciato di fronte al villaggio, che gli era scappato dalla casa, e gli avevano pranciato una macchina che passava lì di fronte. E morale, tu immaginati che questa qua ha dormito tutta la notte col cadavere dell'animale abbracciata. Ma era un po' furia, come se era separata, era un po' poveraccio. Capo, ma ti ripeto, io la conosco da prima che si sposasse, conoscevo il marito, che non ho più visto, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, comunque. I fratelli gambissimi. Con lo scappapista lì e il ragazzo dobbiamo venire in Portobello come infatti siamo là, ma... non so a chi ti stai riferendo, perché non lo so. Sì, c'è la ragazza del figlio là, sicuramente se la vedo capisco che è lì, però io conosco Sandro e l'altro che si chiama, non mi ricordo come si chiama. Conosco di vista ma non so il nome. Ma una cosa è certa, che quando ho cambiato la sala non l'ho buttata via del tutto, ho guadagnato qualcosa, 2000, ma 2 milioni ho guadagnato per quella sala che ho, cioè, ci dovevo buttare perché la volevo più e dovevo prendere quella nuova. Era abbastanza nuova, però me era mia moglie, la voleva più, quindi l'abbiamo data a Portobello. Invece la camera da letto l'ho regalata a un istituto di ex tossicodipendenti. Ma poi c'erano delle situazioni un po' paradossali, un po' particolari, perché prima di capire bene come dovevano gestire certe situazioni hanno avuto tutta una serie di rotture di scatole, non ultima il fatto che loro venivano a un certo punto a svuotarti il magazzino per 80 euro, cioè ti portavano tutto via. C'era gente che aveva le soffitte piene di mondezza, che per 80 euro, dico, non avrebbe, 80.000 lire se non ricordo bene, non avrebbe trovato la manovalanza per quel prezzo. Allora chiamava loro e gli riempì, quindi a fondo perduto, poi non gli interessava neanche di guadagnarsi niente perché poi era mondezza quello che stavano. Però piuttosto di liberarsene chiamavano loro e con 80 euro o 80.000 lire ti pulivano la soffitta, capito? Quindi alla fine loro si rendevano conto che la gente ne stava approfittando di questo servizio. Non so come sia, in breve c'è da parte loro la possibilità di avvalersi del fatto di rifiutare la cosa, quindi arrivano, vedono se realmente è in condizioni per poter essere messo in vendita e dopodiché decidono se portarlo via o meno via, perché se no davvero è a pulirti la cosa con pochi spiccioli. Questo sebbene ci sono da quali, non sebbene, su questo sono andato a vedere, come si chiama quel sito? The Beat, non è la precisione. Ripetimi? Ma è The Beat. Negativo. E prova ad andare, è una sorta praticamente di roba nuova che ti vendono all'asta a prezzi stracciatissimi. Ho visto degli acquari 100 euro, tutti completi con piante, pesci, eccetera, eccetera, grandi. Cosa che se vai a Portobello te lo prendono 150 euro, tutto quanto che non è manco a quello, che sono vasche fatte da loro, di quelli artigianali, coperti senza nulla. Questo qui su MedBid, prova ad andare www.medbid.it e vedi come funziona, ti spiegano tutto il funzionamento di come giocare. Che realmente, aspetta un attimo, ma acquari veri sono, sì? Sì, acquari con i pesci, con tutto, anche a Cagliari ce n'è in vendita. Ci sono macchine che valgono 14.000 euro in vendita a una cazzata 1.500 euro, 1.600 euro. Macchine nuove di zecca. Sono cose secondo me che sequestrano a gente che va in fallimento, però è tutta roba nuova, ci sono iPod, ci sono televisori, ci sono un sacco di roba. Si chiama MedBid, cioè Med come medico, Bid. The Bid. Che cos'è? È un ma partecipi, come puoi partecipare sulle altre idee? No, è tutto qua. Non l'ho seguito bene, ma stavo ascoltando, perché c'è una spiegazione, poi hanno parlato e cose, non ho capito bene com'era, ma comunque ti regalano due punti, qui ogni cosa ha il suo punteggio. Ti regalano dei punti e forse ti devi comprare un pacchetto, per dire, mi compri un pacchetto da 100 euro e poi con questi 100 euro puoi giocare su quello che mettono in asta. C'è una specie di cronometro che parte e poi riparte di nuovo, capito? Ti dà il tempo, capito, per giocare. Ho capito. Oiaiai, oggi io sono quasi addirittura, ma non perché mi devo coricare, ma devo andare a fare roba, a fare cosa che non ho fatto stasera, non ho fatto tutto il giorno. Mi dispiace un attimino che non sia entrato nessuno stasera. Vabbè, non c'è problema, che cazzo ce la siamo fatti lo stesso? Assolutamente sì, e se consideri che sono le 11 meno 10 quasi, ce ne siamo fatti più di due di chiacchierate. Ma domani mattina cosa devi fare? Fare il ritrovo telefonate domenica mattina. Quadrato. Forse mi avvicino anch'io, dai, vedo un attimino. Vabbè, vedi. Già, ti saluto. Buon 144 quando lo fai, ben sentito. 7-3 e ci sentiamo alle prossime, dai. Cosa accade se sta al centro, dai, ci sentiamo, buonanotte. Notte anche a tutti i SWL. Senti, Alice di poco. Però non vai a circolare. Ciao Giulio, buonanotte. Ciao Gianni, ciao a tu. Ciao Giulio.